Bueno, amigos, ha llegado el momento en que tenemos que despedir el programa y dejarlo junto a Roberto, quien está aquí junto a nosotros. Y stay tuned, como les decía, nos encontramos la próxima semana de 9 a 11 de la noche. Una dedicación de amor junto a Jorge Max. Ciao, amigos. Sì, finalmente vorrei abbracciare tutti voi e benvenuti su Ciao Ragazzi, su 2RRR, frequenza 88.5, scusate il leggero ritardo, eccomi qua, come state? Spero bene. Oggi c'ho due ospiti, due ragazzi stupendi, fantastici, gagliardi. C'ho, come la settimana scorsa e la settimana prima, credo che conoscete già Pierluca, il nostro studente viaggiante, studente di biologia marina, e abbiamo anche il suo amico, compagno e nostro amico adesso, Fabio. I loro microfoni ancora non sono accesi perché insomma mi devo regolare un po', devo entrare così di corsa nello studio, come sapete c'è Jorge prima di me e quindi c'è un po' di casino per organizzare le cose. Comunque, anziché perdere tempo, che ne dite se metto in onda una canzone così che ci sistemiamo noi qua? Che ne dite? Non mi sento. I nostri ascoltatori non stanno rispondendo, certo, come fanno a rispondere? Non fanno qua. Comunque, un po' di musica, adesso vi passo Bebè con Malo e tra poco potrà iniziare questo programma come si deve, dai. Ed eccoci tornati in trasmissione, tutto procede bene adesso, ci siamo organizzati un po'. C'è Pierluca che casualmente si legge il giornale. Eccolo. Come state? Ecco. Buonasera a tutti. Buonasera. Ecco, Fabio e Luca, i nostri carissimi amici di Ciao Ragazzi. Come va? Come ti butta? Come vi butta? Ma le butta bene. Butta bene, esatto. Dunque, tu presentiamoti, dobbiamo presentarti, dai, Fabio. Ok, mi chiamo Fabio, ho 25 anni, vengo da Siracusa, in Sicilia, studio biologia marina a Catania. E sono qui per un programma appunto per preparare la tesi di laurea presso l'Università del Sud Galles. Bene, bravo, hai fatto bene, molto conciso. Grazie. E preciso. E c'hai l'aria da turista stasera perché... Ah sì, c'è la maglietta australiana, in onore delle persone veramente squisite che ho incontrato in questi giorni. Persone squisite, sì, e come ti sembra la gente qui? Squisita, abbastanza intelligente, abbastanza simpatica? Sì. Smart. No, persone che tengono ai valori più che ad altre cose materiali. Bene, dovrei dire che sono d'accordo. Dunque, voi al momento state vivendo assieme, state studiando qua? C'è in che senso? Viviamo nella stessa casa. La nostra vita sono nettamente separate. Per fortuna. Bene. Però, come vi sembra? Sì, no, ce la passiamo abbastanza bene. Ma di solito voi in Sicilia siete amici, vivete... Di tu qualcosa. Di qualcosa. Per me, sì. Cioè, non siamo conosciuti nello stesso quartiere, sì. No, siamo in due città diverse. Però, studiando nella stessa città, Catania, ci siamo incontrati in facoltà e... È stata amicizia a prima vista. È nato l'amore. No, perché comunque al di là di tutti gli altri colleghi, insomma, ci siamo trovati bene per passioni e cose varie. Bene. Sì, tutto qua. E come è andata l'università comunque per voi? Perché in Italia c'è i classici fuori corso. No. Come siete trovati poi all'università? Difficoltà, problemi, tutto è andato liscio, l'università italiana è stata buona. Insomma, la struttura lascia un po' desiderare. No, vabbè, parlando della triennale, sì, è tutto a posto, abbiamo finito in 3 anni, adesso abbiamo questi 2 anni. Cioè abbiamo, tra virgolette, stiamo perdendo il tempo qua per la tesi, però lo recupereremo appena arriviamo. E gli ultimi esami abbiamo terminato. Il tema per la tesi scelta? No, ancora no. No. Più o meno qualcosa qui, stiamo studiando qualcosa che riguarda i mitili, ovvero molluschi. Molluschi e inquinamento sulla baia di Sydney, quindi penso che l'argomento verterà su questo. E conclusa la ricerca vi passerà la voglia di mangiare le ostriche, cose del genere, dopo aver studiato? Ma già passa prima della ricerca. Già passa prima. Sì, la voglia, purtroppo ormai. Siete amanti dei frutti marini? Come mi sembra che Piero no. Da mangiare, no, tipo. Non mangio molluschi, almeno. Mitili e cose, roba varia, non ne mangio. No, io sono ghiotto invece, purtroppo. Mi piace il risotto alla pescatora e tutto il resto, sì. Però, occhio che non vede, cuore che non duole. Occhio che non vede, cuore che non duole. L'avete sentito qua su Ciao Ragazzi, il detto della settimana. Perfetto. Comunque, per il fatto di lavoro, ho sentito che tu, Luca, hai trovato lavoro finalmente. Sì, ho trovato lavoro in un ristorante, in cucina. Adesso mi hanno dato il permesso per lavorare dall'ufficio immigrazione. Quindi sì, credo settimana prossima inizierò a lavorare. Comunque, tutto grazie a te comunque, perché l'annuncio l'abbiamo fatto in onda. Sì, sì. Nessuno ci ha chiamato per questa annuncio. Ah, bene, bene. Peccato per loro, perché si sono persi un ragazzo ottimo. Un ottimo cuoco. Un ottimo cuoco, ecco, sarà interessante. Vabbè, insomma. Siete tutti invitati a casa nostra per la famosa carbonara di Piero. A Marubra. Com'è andata sta carbonara? Me la sono persa io. Come l'avete fatta sta carbonara? No, buona. Peccato per la pancetta, perché non abbiamo trovato la pancetta dolce, però veramente buona. Pancetta, uovo, semplice. Pancetta, niente. Parmigiano. Niente, spaghetto e poi cosa c'era? E tanto amore. Pepe nero, si mette pepe nero. Pepe nero, sa, un pizzico di sale. E poi di nuovo la spruzzata di cipolla e la cipollina, un po' soffritta. Ah, anche un po' di cipollina. No, semplice, sì. Poi l'uovo si mette alla fine a pasta già pronta e con la pancetta già girata. E si gira. Quindi, in termine, parlando del metodo, prima si soffrigge la cipolla, la pancetta, eccetera. Perfetto, poi si butta la pasta. Si butta dentro la pasta. Si butta l'uovo a crudo, si gira a fuoco forte. Ecco. Per poter solidificare, insomma. Perché c'è gente comunque che spegne il fuoco. Sì, uguale, spegne. Mette versa l'uovo dopo che è stato spento. E lo gira solamente così? E lo gira solamente. No. Ci sono metodi. No, poi non lo so, ma così l'uovo crudo a me non piace personalmente. Cioè, poi ci vuole più tempo per diventare grumoso comunque. Invece sul fuoco sì, non so, salta senso subito. Di croccante, insomma, un'altra roba. Perso. Comunque qualche settimana fa abbiamo parlato del pesto. Sì, il pesto è andato molto ormai bene. È stato promosso. Assaggiato pure dal nostro conquilino, purtroppo. Ecco. Qual è stata il suo la sua opinione? Very special. Purtroppo ha qualche problema che dobbiamo fare ormonale. Mi dispiace per lui. Ha un caratterino. Diciamo un caratterino, sì. Chiamiamolo caratterino, un vizietto. Comunque, lasciamolo stare sto ragazzo. Poveraccio. Su cazzi su. No, non si dice in onda. Attenzione ai nostri ascoltatori, potrebbe scappare dai miei ospiti questa settimana. Comunque facciamo i bravi. Okay. E poi, non so niente, ti stai dando una lucidata al cellulare, vedo Fabio. Ah, sì, no. Stai aspettando una chiamata oppure... No, c'è l'olio che uso per abbronzare. Sopra, quindi stavo pulendo, tutto qua. Ecco, sei un amante dei telefonini? Gli italiani sono molto affezionati ai telefonini. Sì, ce n'hai due. Uno per la ragazza. Uno è il privé, che la ragazza non sa, e l'altro è solo la ragazza. Si possono dire queste cose? Ma sì, tanto lei in Italia, chi se ne frega? Vogliamo fare... Stiamo scherzando, dai. Anzi, mi manca veramente. Un saluto falso a lei. Falso come Giuda. È vero. No, saluto Jessica, la mia ragazza. Niente, che dire, a breve tornerò e potremo ritornare insieme, insomma, continuare questa avventura. Riabbracciarci. Alla fine questa puntata va anche in internet, quindi volendo si può anche scaricare. Infatti. Guarda un po'. Infatti. La zappa sui piedi. Vogliamo fare un cenno ai nostri ascoltatori, può darsi, non lo sanno, è una cosa abbastanza, una novità per questa stazione. Adesso si può andare direttamente sul sito www.2rrr.org.au e seguire i link per scaricare questa puntata di Ciao Ragazzi, così ve lo mettete sul lettore MP3 e passate delle bellissime giornate mettendolo a replay volta dopo volta per tutta la settimana. Potete ascoltare la nostra voce. E anche c'è una bellissima ragazza tedesca che fa questo lavoro qua in stazione, dico sempre stazione, in radio. Ma che ora è il suo programma? Il suo programma, non c'è un programma, però è il lupo. È interessante perché è un po' nella situazione vostra. Questa è una studentessa tedesca che sta facendo la tesi. Ve la presento se volete, guarda, sono rimasto un po'. Bene, ho ringraziato la responsabile qua alla stazione per averla assunta. Ma magari già l'hai riservata per lui, tu che ne sai, Pietro? No, dai. Roberto è fidanzato. Io sono fidanzato, ecco. Vabbè, ma non è geloso, dai. Attenzione che mia madre ascolta questa trasmissione. Fate tutti fidanzati e poi volete mettere il piede fuori dalla... Ecco, come ecco. Dei fagiani dell'Etna. Del seminato. Comunque vorrei dare un ringraziamento a lei, anche se non segue... Non capisce l'italiano, quindi, però questa ragazza, devi pensare che tra qualche giorno ci sarà una simpatica, bella ragazza tedesca, giovane, studentessa, che sta facendo la tesi come voi. Domenica siamo qua, no? Anziché, per coincidenza. Guarda, in coincidenza. Domenica anziché, siamo però, qua, cioè, è un problema. Infatti. Quando sarà? Non ho capito. Comunque, stavo spiegando, sta ragazza, anziché tuffarsi nel mare, ovviamente, a fare ricerche, viene in questa stazione radio. Okay, che autobus passa per qua? In che giorno? Un saluto, sono un po' messo in imbarazzo perché mi sono dimenticato suo nome, anche se mi è stata presentata. That's sad. Però grossa, A pensare che sta davanti al computer lei, questa ragazza, il martedì, con le cuffie, ad ascoltare secondo per secondo la trasmissione per fare il montaggio più o meno, quindi ci ascolterà. Beh, io ti mando un saluto, anche se non sei il tuo nome. Caloroso, direi. La settimana prossima avrò il suo nome, quindi... Ma lei non capisce l'italiano, quindi... No, peccato. Ciao, tedesco. Adesso non lo fa più il programma, ha capito che la stiamo... Abbiamo perso. Comunque, secondo me a questo punto sarebbe anche il momento giusto per mettere in onda un'altra canzone. Io ho scelto, perché la classifica questa settimana non la facciamo, però mettiamo in onda canzoni che sono state in classifica più o meno. Non ho avuto tempo per preparare la trasmissione. È un italiano? Come? È un italiano il cantante. Il cantante è un italiano. Credo che sia un certo ragazzo di Latina. Ah, Tiziano Ferro. Hai indovinato. Immancabile. Automobile, hai vinto l'automobile. Magari, il modellino Burago. Ecco, il modellino Burago della Fiat Punto. Ti scatterò una foto. Qual era la canzone? No. Riprovaci. Dai, quello là. Aspetta, non lo guardavo. Infatti Amsterdam sopra una candela la te chi si sì. era bellissimo Want to be part of radio? Interested in how it all works? Here's your chance. Come to 2RRR and learn about announcing, interviewing, editing, production, scriptwriting and broadcast law. The 2RRR radio training course, 8 weeks of seminars, workshops and panel training. To enroll, call 2RRR on 9816 2988. That's 9816 2988. Or visit www.2rrr.org.au. Do the 2RRR radio training course and learn how to make good radio. Eccoci, siamo tornati in trasmissione. Ciao ragazzi, ciao, stavamo chiacchierando un po' come giusto fare. Ciao, come va? Dunque, Luca avrebbe un annuncio da leggervi. E io una dedica. Ci dividiamo le mansioni. Sì, ok. Associazione Nazionale Alpini. L'Associazione Nazionale Alpini Gruppo Abruzzi organizza per domenica 18 marzo la festa del 24° anniversario all'Abruzzi Friuli Veneto Sports Club di Lanzvelo. Il programma della manifestazione prevede alle ore 10 il rinnovo del tesseramento, alle ore 11 la Santa Messa celebrata da Padre Antonio Fregolent e alle ore 12.30 il pranzo al costo di $15 per i soci e di $25 per tutte le altre persone, bevande non incluse. La giornata sarà allevata dalla musica del maestro Vladimir Kaufman. Per ulteriori informazioni telefonare a Carmine, Charlie, Santo Domingo, 97 69 02 05, Tony Lucitti, 96 37 75 64, Marzia D'Alessandro, 96 45 26 34, Aparizio Cavasini, 96 10 16 94. Bene, grazie. Questo è per l'associazione Alpini. E dunque abbiamo un annuncio per l'Istituto Italiano di Cultura, letto da Fabio. Fabio, prego. Appunto, l'Istituto Italiano di Cultura di Sydney, organismo ufficiale dello Stato italiano, ha quale obiettivo? Quello di promuovere e di diffondere la lingua e la cultura italiana in Australia, attraverso l'organizzazione di eventi culturali per favorire la circolazione delle idee, delle arti e delle scienze. L'Istituto Italiano di Cultura di Sydney offre al pubblico australiano i seguenti servizi: corsi di lingua e civiltà italiana tenuti da docenti qualificati di madrelingua, 2 sessioni annuali di esami per ottenere il diploma di conoscenza della lingua italiana come lingua straniera, una biblioteca italiana a disposizione dei soci dell'istituto e degli studenti iscritti ai corsi di italiano per la consultazione e il prestito di libri, videocassette, CD, DVD, riviste e giornali italiani, servizio di informazione e documentazione sull'Italia nel campo culturale. Per le manifestazioni concertistiche, per alcune mostre d'arte e per gli eventi di maggior respiro, l'Istituto si avvale della collaborazione. Oltre a ciò, è un ottimo punto di riferimento per bandi e concorsi disponibili per studenti interessati ad ottenere borse di studio per studiare in Italia. Questo istituto può essere contattato allo 02 9392 7939. Ripeto, 02 9392 7939. Oppure via email al sito, all'indirizzo iicsydnay@esteri.it. Bene, grazie. Promossi, tutti e due, promossi. Come va? Come ti butta? Bene. Bene. C'è sto dentro, c'è sto. C'è sto dentro. Questi ragazzi sono siciliani, quindi... Ma parliamo romano, mo. Ma parliamo romano. È molto facile, come dire, sì, tutti possono... prendere sta accento romano. È molto, molto facile assumerlo. Vero, Roberto? È vero. Non so se ci avete fatto casa. Che famo? Ha fame. Famoci una birra. No. Ce porti dubire. Comunque mi manca il panino, il famoso panino con la porchetta. No. Anche a Siracusa, in Sicilia, è sviluppa la porchetta. La porchetta. È una cosa prettamente toscana. La carne di cavallo e lo svizzero. Parlando della Toscana, l'avete mai provato il lampredotto? Lo conoscete il lampredotto? Sentite perché... dire, ma non provato. Dunque, non è proprio la trippa come la tipica trippa. Trippa con le patate. Ecco, è una parte della pancia. Lampredotto. Si chiama lampredotto e si può comprare soltanto a Firenze, che poi io sono stata tipo a Siena, lì vicino, non ce l'hanno proprio, solo a Firenze. È una specialità schifosa, praticamente. carne di lampreda. Carne di lampreda. Un ciclostomo, detto pure. Comunque, pesce privo di denti. Pesce privo di denti. Primitivo, sì. Ah, ecco. No. Stiamo scherzando. Detto, non vogliamo confondere i nostri ascoltatori. Per assonanza, no? La preda. Ha detto che è una specie di trippa. È una specie di trippa, è marrone di colore. sicuro che mi ricordo il famoso film di Alberto Sordi. Non possiamo... Quale? Sicuro che è trippa, il Marchese del Grillo, però c'è una scena che si mangia, si mangiano queste spaghetti con questo interiore. Ormai la devi dire. No. Gli chiedevano appunto cosa fosse l'interiore, ma lui diceva poi te lo dico. Alla fine dice bagliato merda. Ok, stasera ragazzi sarà l'ultima domenica. L'ultima puntata di Ciao Ragazzi. Abbiamo fatto il grande Alberto, attenzione. Abbiamo fatto perdere il posto di lavoro a Roberto, mo possiamo andare via. Vabbè. Scusa, quando tu mangi interiori cosa mangi? Direi più o meno cacca. Ecco ora direi di... Come detto che è barrone. Vabbè. Cambiamo argomento. Comunque vi ringrazio per avermi... aiutato. Mangiate il labbredotto, il messaggio. Dunque, domenica prossima... ci facciamo un'uscita perché non sarò più in radio domenica prossima. Grazie per essere stati ascoltatori di Ciao. Sarei a carico nostro, non ti preoccupare. Comunque ve lo spiego perché ormai i nostri ascoltatori sono curiosi, dai, parlando del lampredotto. Spiegaci come si cucina. Dunque, questo lampredotto è bollito in un... Bisogna pulirlo bene, credo, no? Bisogna togliere la cacca, più o meno. Si usa carta igienica, roba vaga. Bene le sottocorrente. Con la sannaffia, sì. Vabbè, stiamo scadendo nel volgare. No, dai, ve lo spiego. Dunque, viene bollito in un brodo vegetale. Tolgono da sto brodo. Questo sta ridendo. No, mi è venuto in mente un altro film famoso. Non finisce mai questa racconta. Questa volta, vabbè. Viene tagliato in pezzettini, in quadratini, messo in un panino, in una rosetta. Mettono sto lampredotto, poi peperoncino in polvere. Tanto per uccidere un po' il sapore. Tanto per uccidere un po' il sapore. Di selvatico, direi. Di selvatico. Poi la parte superiore della rosetta viene imbevuta nel brodo vegetale. Il siero che ne fuoriesce. È una tristezza infinita. L'ho cercato come un matto sto lampredotto. Me ne sono mangiati due. No! Era buono, ma non so come spiegarlo. Sarà stato proprio per il mito del lampredotto che ero tanto ossessionato e non l'ho che potuto trovare. Che te fregava trovare. Se c'era tanfo del me. E non mi interessava, che lo volevo così tanto. Scusa, questo lampredotto, a parte scherzo, viene da bovini o suini, sai qualcosa? Bovino. Quindi è una frattaglia del bovino, insomma. Ecco, ci avrò una fotografia, poi ve lo faccio vedere. Non sembra la trippa. Scusate, la trippa tradizionale bianca. Sta salendo qualcosa. Sta salendo qualcosa, scusate ragazzi. non sarà stato. Ricordi, questo non è il kebab di prima, questa è un'altra cosa. È la predotta di due anni fa. Te si ripropongono, come dicono a Roma. Te si ripropongono. Mi stanno riproponendo sti... Oh, Dio. Vabbè. Comunque, io direi era di buono. Mettere una musica. Era buono. A questo punto Diego Badantola avrebbe detto una frase celebre alla sorella Maria, però... Dai, ascoltiamoci, questa è una canzone brasiliana, però in lingua inglese. Questa è una canzone che mi fa ricordare il Lampredotto dell'estate scorsa. È una canzone che andava molto no, andava molto bene l'estate in Italia. No, può darsi non la conoscete, perché l'ho sentita più che altro sulla Flux TV. Non so se ce l'avete voi. Flump TV. La Flump TV. Vabbè, non diciamo cos'è il Flump. È un canale simile alla MTV. No. Comunque, no, okay. Grande. Stavo a fare un po' di anatomia con Pier. Avete appena sentito Cansei de Ser Sexy, gruppo di Rio de Janeiro in Brasile. Questa era Let's Make Love and Listen to Death from Above. Canzone strana, un titolo strano comunque. Mi ispira. Mai sentito. Comunque vogliamo fare un saluto a una nostra carissima ascoltatrice Daniela. Daniela, ciao, grazie per essere in sintonia con noi questo sabato sera. Ciao Daniela. Domenica sera, scusate, io sono. Ciao Dani. Ciao. Io la chiamo Dani California a volte. Ah, la canzone di Red. Perché è ispirata dalla canzone di Red. Comunque, non cantiamo più, ve lo prometto. L'unica volta. Sanremo è finito purtroppo. Comunque vogliamo far sapere, Sanremo è finita, finita male. Che cristicchi, ma un'altra. Un'altra vittoria tristissima. Vabbè, fin quando ci sarà il Pippo Baudo, sarà sempre così. Oddio. E la Hutzinger. Vi dico soltanto che secondo è arrivato Albano. Cioè, non so se mi si piega. Come si dice? Si dice that's sad. That's sad. Una tristezza che mi pervade dentro. Really? Arrivare a un certo punto da Johnny Dorelli. Ritirato. Johnny Dorelli, da. Vabbè, questa scade veramente nel ridicolo. Che possiamo fare, ragazzi? Dunque, il nostro numero in studio, se ci volete chiamare, è 9816-2938. Ripeto, chiamateci. Se volete parlare con noi in studio. Questa? 9816-2938. Spero che vi state divertendo. Tra pochissimo inizieranno le partite di Serie A alle 1 di mattina. Voi ragazzi, volete sapere i risultati? Ve li posso anticipare. Con abbondante? Con la Vinic. Comunque sì, giocherà, non so chi giocherà, non mi sono aggiornato abbastanza. Ma però... tutte però. Ah, vi dico un risultato triste, io sono juventino, ieri la Juve ha perso 3-1 col Brescia. Ma l'effetto Moggi si sta vedendo, dai. Adesso si comincia anche a perdere. Sarà sicuramente contentissima la nostra amica Stefania. La nostra è stata in programma tramite l'invenzione del telefono, questa ragazza. Spesso fa una rubrica lei. Che tipo di rubrica? La domanda sorge spontanea. La risposta è non lo so. Non lo so. Non lo voglio sapere. È una grande fan dei Red Hot, questa ragazza. Ha conosciuto Chad, il batterista. Ci ha raccontato il folle, capito? Il folle. Però il cappello blu si è sbeggiato al contempo. Ecco, quello là. Insomma, ha aspettato... È quello là. Ha indovinato chi era. L'ha aspettati davanti al loro albergo d'inverno. Per giunta, ha visto, è entrata nell'albergo. L'ha seguito nella stanza. Avrebbe voluto seguirlo. Non ce l'ha fatta. Per un incontro ravvicinato di terzo tipo, però. 30 euro per un caffè a questo albergo. Ha pagato? Ha seduto a tavola 30 euro. Il suo gli è costato 6 euro al banco. 6 euro, però questo era a Milano, su via Monte Napoleone. Monte Napoleone, ecco. Netto, la via più costosa di Milano. È d'Italia sicuramente. Sì, vabbè, insieme a Roma, Piazza di Spagna, eccetera. 30 euro per un caffè. Io l'ho pagato 12 euro a Piazza buonissimo. San Marco. Io l'ho pagato 12 euro a Piazza San Marco a Venezia. 12 Quanto? Euro. 12 euro a Piazza San Marco a Venezia. 9 euro a Firenze. Cioè, non so se voglio dire. È una cosa assurda. Questa è l'Italia. A Taormina, vicino a casa mia, ho pagato 2 sorbetti 19 euro, ho dimenticato. Ma non hanno coscienza queste persone. No. Comunque, mettiamo in onda pubblicità. Bentornati in trasmissione, io sono Roberto, tu sei? Luca. Fabio. Bene. Grazie. Stanno andando bene le cose. Dunque, sono le 23:39. Esatto. Esatto, precisi. Ok, il prezzo è giusto. Il premio è di 5 milioni di lire. Ok, magari. Il prezzo è giusto. Il grande. Prezzo è giusto. Ma seguite, non so se voi seguite a casa, la trasmissione che va in onda qui comunque su Rai International, grazie alla parabola, l'invenzione della parabola arriva anche in diretta. L'eredità. Come? L'eredità di Rai International, c'è quello. Con Conti. Con... No, non quella, come si chiama? Affari tuoi. Ah, affari tuoi, tristezza. Oh, stai offendendo i nostri ascoltatori che la seguono, non conoscono altro. Sto scherzando, è un bel programma. Solo quella arriva qua, quindi non è che abbiamo una grandissima scelta. Certo, sarebbe bello. Io sono un posto al sole, quindi voglio dire. E il posto al sole lo fanno comunque lo so, di mattina. Mi manca da morire. Te lo posso registrare, te lo metto in DVD. Volentieri. Faccio una telefonata a mammina, mamma, me lo registri. Ok, abbiamo come dire, sistemato una cosa in questa trasmissione. Fiora. Adesso un posto al sole te lo puoi rivedere. Sono le stesse puntate che vanno in onda in Italia comunque. Sì. Okay, comunque, Affari tuoi va in onda. Peccato, perché anche se è una trasmissione carina, mi manca da morire Passaparola. Cosa ti manca di Passaparola? Le letterine o Jerry Scott? Le passarelle. Le letterine, no? Le letterine. Mi mancano. Ma voi che... Non so, se un mese fa eravate praticamente in Italia. C'è ancora la Hilary, la fa ancora? No, Hilary è tre anni che non c'è ormai. Sono tre anni. Si è sposata con Totti. C'ha due bambini, no, lei ha fatto ultimamente le Iene. Ah, ha fatto le Iene come... Con la Chiabotto, ha cambiato con la Chiabotto. E come va con lei? Perché io mi ricordo c'era la Alessia Marcuzzi. No, come si chiama? C'è stata la Ventura, la prima di tutte. La poi prima. C'era Alessia Marcuzzi, sì, poi la Chiabotto, adesso c'è lei. Però siccome è incinta del secondo bambino, ha avuto anche una volta sentita male, in trasmissione stessa ha avuto dei giramenti di testa, quindi non so se l'hanno sostituita adesso. È stato poco prima che noi venissimo qua. Ma allora c'ha tipo, come dire, abbastanza in gamba, sveglia per fare una trasmissione come le Iene? Sì, diciamo che c'ha anche gli agganci. C'ha l'agganci, però in dico... In Italia funziona così. C'ha l'agganci, ma dico, per presentare una trasmissione del genere sì, bisogna sì, essere abbastanza svegli. Sì, anche perché i due disgraziati, Paolo e Luca, la prendono per il culo. Sì, praticamente. Alla Chiabotto una volta, la prima volta che l'hanno vista, ha detto che tu sei la prima presentatrice delle Iene, vera concava, perché aveva il senno, abituati con la Marcuzzi. Comunque la Marcuzzi, grazie a Dio, la Marcuzzi non risponde al telefono quando la chiamo. No. Sai che dobbiamo fare? Dobbiamo cercare una celebrità italiana, o un italiano, e fargli un'intervista in trasmissione, come andrebbe questa? Idee? Sai come procurarti il numero? Sì, il numero lo posso procurare, a chi vi interessa? Quello che proviamoci. Una donna o un uomo? Ecco. Sa a te, se vuoi un uomo magari può venire anche il vostro coinquilino. Ma intervistiamo... Maurizio Costanzo. No, Maurizio Costanzo sarebbe difficile. Ci possiamo un paio di nomi, li buttiamo fuori e poi mi impegno a farli andare in trasmissione. Gli dico, sei molto seguito qua in trasmissione, eccetera. Bene. Chi? Idee? La Marcuzzi mi starebbe bene. Mi piacerebbe parlare con Jerry Scotti. Jerry Scotti? Sì, perché comunque è simpatico, uno della televisione che mi piace, gli altri... Riso Scotti! Sì, no, mi sa molto di... Io intervisterei... Mike, buongiorno. Gli portiamo... Eh no. Allegria! La devo proprio dire. Tappatevi le orecchie, mettete il bollino rosso, Sei proprio uno stronzo. Arriva anche qua comunque Fiorello, su un'altra rete. Ah, sì, Viva Radio 2. Più che Mike Buongiorno era riferito Intervistiamo Fiorello. Fiorello? Dai. Ci proviamo. Fiorello, digli che sta di Siracusa, siamo qua, lui è siracusano. Ah, già. Lui è di Augusta, in provincia di Siracusa. Ragazzi, non ve lo prometto, non lo prometto ai nostri ascoltatori, ma ci proveremo. Tra due settimane. Domenica non ci siamo. No, dal dito. Ah, è vero. Perché comunque questa trasmissione, mentre va in onda questa trasmissione, praticamente è l'orario di pranzo in Italia, quindi la gente è a casa, quindi si potrebbe anche fare un collegamento. Sarebbe bello. Dice che ci sono due siracusani. Tornate in Siracusa, dite, sono stati in Australia, intervistata a Fiorello. E dovevi andare in Australia per vedere a Fiorello, tu che sei di Siracusa, mi dicono. Ma solo con te possiamo fare questa roba. Grande Robby. Sì, c'ho i miei contatti pure. Sti cazzi. Oh, ma mi fanno un sedere così se continuo a dire parolacce, ragazzi. Attenzione alla lingua, che se no sono... Sono nei guai. Sono nei guai. Proviamo, Fabio. Guai. Ecco. Comunque adesso sarebbe ora di mettere un'altra canzone in onda, direi. Sì, perché no? Eccovi. Questa è una canzone che la dedico a Fabio, il ragazzo con la lingua sporca. Scusate, un piccolo problema tecnico, però... Ciao, come state? Siamo fatti, ciao, ragazzi. Foto, dai. Siamo fatti, eccoci. Quello è stato uno stacco, eccoci, siamo tornati in trasmissione, un po' di distrazione. Possono succedere queste cose. Un po' di confusione può succedere in onda. Sarà perché ti amo. Come state? Come stanno i nostri ascoltatori? Potete chiamarci sul 981-62938 se volete, se vi va, se non vi va nessuno vi obbliga, anzi, meglio se non chiamate perché, sai, noi non è che siamo tanti capaci a rispondere al telefono, mettervi in onda, siamo un po'... Ci vuole la laurea. Ci vuole la laurea, dice. Dunque, il nostro amico Fabio sta giocando col microfono, quindi glielo spengo nel frattempo perché se no fa un po' di rumore. Ecco, siamo sistemati? Ok. Dunque, sono rimasti tipo 10 minuti per la nostra, nella nostra trasmissione questa settimana, spero che vi stiate divertendo. Io dovrei leggervi un piccolo announcement, se non vi dispiace, un piccolo annuncio, si tratta del COASIT. Dunque, COASIT, il Comitato Assistenza Italiani, è un'organizzazione not for profit che opera come centro d'assistenza per la comunità italo-australiana da oltre quasi 40 anni. Dai suoi modesti inizi alla fine degli anni 60, COASIT oggi continua a seguire i suoi obiettivi iniziali con efficacia, cioè assistere gli emigrati italiani tramite un coordinato programma d'accoglienza e promuovere sia le lingue che la cultura italiana in Australia. Sotto questi due primari obiettivi COASIT opera grazie al contributo di professionisti bilingui di varie specializzazioni quali psicologi, assistenti sociali, interpreti, eccetera. COASIT offre servizi di supporto per la varietà di problematiche che potrebbero affrontare i membri della comunità italo-australiana, da problemi burocratici, problemi familiari a problemi di tossicodipendenza e alcol. Oltre ad assistenza con problematiche di questo genere, COASIT si presenta come una risorsa immensa di materiali culturali, con una ampia videobiblioteca, oltre ai suoi eccezionali programmi di insegnamento della lingua italiana, sia ai giovani che ai più grandi. Dunque, se siete interessati a contattare il COASIT per qualsiasi motivo, il loro numero è 02 9564 0744, quel numero 02 9564 0744, oppure la sua sede si può trovare al numero 67 Norton Street, Leichhardt. Per ulteriori informazioni potete anche controllare il sito web www.coasit.org.au. State ascoltando Ciao Ragazzi, è scattato un telefonino qui dentro, che cos'è? Chi vi chiama? Chi vi contatta? Nessuno. Vogliono sapere. Ci stai cercando col satellite. Oddio. Siamo dispersi. Siamo chi vi contatta? 20.000 chilometri di distanza da casa. A 20.000 chilometri da casa, proviene dall'Italia questo. No, no. No. È un promemoria mio. Oh, okay. No worries. No worries, man. Hanno imparato l'inglese questi ragazzi. No worries. Perché se mangio le parole gli australiani, vorrei dire io? Non posso dirtelo, non... anch'io sono colpevole a un certo punto a mangiarmi le parole. Vabbè. Succede. Anche nelle migliori famiglie, vabbè. Come? Anche nelle migliori famiglie. Dunque, sono rimasti con lui. Io domenica prossima non ci sarò. Io neanche, purtroppo. Mi spiace per voi. Ti ho stroncato sul dash. Che fate voi due? Ma io vado a vedere il Gran Premio di Formula 1 a Melbourne, vado a trovare i miei zii che stanno là, gli italiani. Piero? Piero? Io vado a Southwest Rocks. Southwest Rocks. Ah, guarda la pronuncia, Southwest Rocks. Sta passando un po' troppo tempo con gli australiani, questa ragazza. Sta parlando bene, troppo bene l'inglese. Mi sa che farò casa qua. Ho perso un amico. Possiamo anche fare un collegamento, diciamo, per telefono, volendo. Dai, ci sto. Un saluto lo potete saluto fare. Veloce. Anzi, io c'è una cosa, se mi ricordo, se vi dico tutti i risultati del Gran Premio, dai. Puoi fare una rubrica sul Gran Premio, se volendo, tranquillamente. Beh. Il numero di telefono per chiamare in studio. Siete tutti invitati al barbecue lunedì sera. Ecco, facciamo questo annuncio. Se presentano 200 cristiani siamo fottuti. No, massimo 20 persone. Perché... mettetevi d'accordo, contratevi qualche il 21esimo a casa. Dobbiamo tenerla segreta la via. La via. Sappiamo a chi dirlo, giusto Roberto? Ecco, sappiamo a chi dirlo, giusto. Bello Roberto, non girare la tedesca. Mi dispiace, prenderò sicuramente i suoi connotati. Sei ufficialmente invitata al barbecue lunedì sera, giorno? Giorno 20. 20. Giorno domani 20. È il mio compleanno, quindi siete tutti invitati pure. Auguri, complimenti. Comunque adesso abbiamo fatto di ritardo. Magari quindi se chiudiamo è meglio. Magari se chiudiamo. Pari to pari. Pari repari, dunque è un bello, tante sedi belli i nostri ascoltatori, comunque adesso un grande saluto a tutti, questo è Zero Assoluto con sei parti di me, ci sentiamo la settimana prossima, ciao ragazzi, ciao.